4 mattino. Rieccoci, 8-17 minuti. Davanti a me l'immagine, l'icona, la tabula di un Oscar Giannino sacrale, gandiano. Cani e gatti, cani e gatti. Ciao fratello. Buongiorno, buongiorno. Ma è un maglione o una sciarpa? No, è una sciarpa perché qui hanno tenuto il frigorifero acceso in studio. Infatti dall'altra parte c'è Camelo che ride sinistramente perché dice scherzetto. E quindi ho dovuto ricordare questa sciarpa che ha dei grandi teschi per ricordarmi che tutti dobbiamo morire. Che sei rimasto? È vero che... Ma e c'è continui riferimenti alla morte. Siamo in un programma che intrattiene, che informa, e quindi che solleva il morale della nazione. Ma bisogna considerare la morte come un complemento verso il quale sorridere, come tutto ciò che fa parte della vita. No, sì, ma io non ho un aspetto triste. Ciò che i politici non capiscono è che il romanzo della fine è il racconto più difficile da scrivere, più dell'inizio di una carriera politica. Il futuro entra in noi molto prima che accada. Qual è la tua notiziola di oggi? Che ti ha intrippato Trump? No, ti dirò che non posso fare a meno di ridere su una notizia che apparirà a molti meno importante di quello che capita, la commissione bancaria, Boschi, Carrà, eccetera, eccetera. Però mi ha fatto molto riflettere. Non so se l'hai vista su Repubblica, c'è una pagina dedicata a questa vicenda di come il corpo dei vigili urbani di Roma ha chiesto a una cittadina di scusarsi nei confronti del corpo. Facciamo risentire, aspetta perché è meraviglioso. Hanno fatto un video con la web gogna. Era già stupito Mario Giordano oggi. Senti. Ma sì, perché è pazzesco. Eh? È pazzesco, cioè... Però è educativo, io sono molto d'accordo. Ecco, tu sarai molto d'accordo, però che adesso veramente, cioè, si prescriva su che piattaforma uno deve pronunciare l'auto da fe per quanti secondi almeno che sia aperta e non chiusa. Se no non lo fanno. No, ho capito. Se no fanno i furbi, una si è rifiutata. Senti io che bello. Io sottoscritto esprimo profondo rincrescimento per il comportamento tenuto nelle vicende per i quali sono indagato, per oltraggio a pubblico ufficiale. Formulo le mie più sentite scuse e le mie più sentite scuse a tutti gli appartenenti. Vai Oscar, polizia locale. Perché prima la formula burocratese stentoreo regimistica mi induce a sorridere. Le mie più sentite scuse. Comunque, secondo me è un incrocio al giorno dei nostri tempi del vigile urbano di sordi. Non ci posso fare niente. Non riesco a prendere sul serio le istituzioni che dettano ai cittadini che fanno una battuta, da cui seguo l'indagine, perché naturalmente istituzionalmente l'hanno subito denunciata, dettano con queste formule come deve andare a battersi il petto sui social. Mi sembra una concatenazione di cose che sono date ai nostri tempi, le descrivono nel loro paradosso, un paradosso no, che però è un'auto-implementazione. C'è un pregiudizio tuo su aggiuntaggio, che se avesse fatto aggiunta Veltroni, no, diresti che era edificante. No, io figurati. No, ma non sto guardando il colore politico, anche perché il corpo dei vigili urbani è un colore politico, dovrebbe essere terzo e amministrativamente indipendente dalla politica. Dico che questa mania adesso di dover ridurre tutto a quanti secondi e minuti sui social prende anche il vicecomandante del corpo dei vigili urbani. Ma su, ma io si occupa di cose più serie. L'intervista è purtroppo anonima, la signora che si è rifiutata ed è andata a processo perché non gli hanno scontato l'aggressione pubblica. Ma il tax cut di Trump, sei il più grande conoscitore di sistemi di tassazione del mondo, non ti pronunci sul regalo di Natale di Trump? C'è molta polemica, il Corriere lo tratta male. Il Corriere lo tratta male, chi avanza obiezioni? Sono obiezioni, diciamolo, fondate, nel senso che sono fondate sia quelle sul deficit complessivo e sulla sua mancata copertura. Quindi capisco tutte le obiezioni, formulo un caveat, come si dice, metto le mani avanti, dico state attenti e invito a stare attenti perché i mercati, come i nostri ascoltatori sanno meglio di altri grazie al fatto che abbiamo un'informazione economica sui mercati e sul nostro GR martellante, sa che hanno inanellato una serie veramente storica di record di Wall Street grazie alla preparazione del dibattito parlamentare e all'approvazione. E allora? Allora, detto questo, e anche lì metto le mani avanti perché... E non mettere 40 premesse, dimmi non sono senso. Premesse. Il senso di questa roba è che si poteva fare meglio salvando la cosa fondamentale, cioè il taglio di aliquota alle imprese dal 35 al 21 è una cosa di cui l'America aveva bisogno ed è una cosa che probabilmente tornerà a far rimpatriare non i 3 mila miliardi di dollari, 3 trilioni di dollari che tengono all'estero, ma un bel po' di carburante per la crescita americana. La roba ma sulle quanto costa? Ecco, quanto costa lo vedremo, ma costa molto, costa tanto. Terza osservazione, però gli Stati Uniti possono ancora permettersi un debito che sale ancora un po', ma non troppo, a quelli come me non piace molto. Quindi io salvo la parte che riguarda le imprese. È tutto fatto a debito, vediamo, perché se i tassi di crescita sono questi, io non sono uno che crede alla curva di Laffer. A me sarebbe piaciuto tagli di spesa. Sei diventato lafferiano. Ma no. Beh, solo che poi il problema è che tu non vuoi che si entri nel merito, vuoi che si dica che è un errore. Ti piace? No. Ma io ti sto solo stuzzicando. Io ti sto dicendo che la parte che serve. La parte mi che diverte serve... che difendi in America, difendi un taglio a debito. Qua no, draconiano. Non lo difendo. Ti dico infatti che io salvo la parte che riguarda le imprese, la parte che riguarda i contribuenti non mi piace, perché è quella che crea molti problemi sociali e che crea un deficit aggiuntivo di cui non c'era bisogno. La parte che riguarda le imprese invece, c'è quella lì, quella al 35% sul reddito delle imprese, si è dimostrato un grave errore nella storia americana. Quindi, come vedi, distingo e ti sto dicendo che al deficit non mi piacciono. Solo che l'amministrazione Trump, quando si tratta di tagliare la spesa, indica solo programmi sociali alla Obamacare, e anche quello è un errore. Lui dovrebbe dire che deve tagliare la spesa altrove, capisci? Ecco, quindi vedrete che nel tempo non sarà quello che sembra oggi, sia nell'aspettativa di crescita, che secondo me saranno migliori di quello che dicono i suoi critici, sia sul deficit, che invece sarà un problema. Ma tu sai che però nel testo approvato c'è una specie di stop automatico alla riforma se le prospettive di deficit che si creano nel tempo diventano troppo grandi. Quella, per esempio, è una buona misura che in Italia noi non approviamo, cioè mettere nei testi delle norme delle clausole sunset law, cioè tramonto, se gli effetti sono peggiori di quelli attesi, alt, si ferma tutto. Per questo, per esempio, quella riforma c'è, ecco, per dirne un'altra. Oggi allora, si vota in Catalogna, oggi viva la Catalogna libera! Sì, si inizia a votare alle 9 e Giannino è già in campagna elettorale. Io scherzando dicevo è finita che era la campagna elettorale. Noi siamo con Ciudadanos, siamo con Podemos, siamo con le forze nazionali, non con i separatisti. Ah, io, stai con il repressore e arrestatore, ma certo, sei coerente in questo. Con i repressori, come con tutti gli leninisti, sei sì, con signore, l'arrestatore nazionale. Siamo per l'Europa, contro le piccole no, parti. No, Rajoy non è l'Europa, Rajoy è il vecchio spirito della Spagna dell'Inquisizione. No, Rajoy è il trapassato remoto. Tu stai con i resti dell'autarchia fascista spagnola. Inés è pure carina. Ma non mi interessa, Ciudadanos a livello nazionale è un'ottima formazione. Poi in Catalogna è anti-indipendentista in maniera feroce. Io sono per un'Europa delle regioni. Credo che Rajoy abbia commesso un crimine politico dal 2006 in avanti, devastando i rivoluzionari che scappavano a Bruxelles e disattivando lo statuto dell'autonomia. Solo che a voi centralisti, come dai, a tutti i politicisti dai, centralisti, non vi piace l'autonomia. Non si può sentire. Non i rivoluzionari che scappano a Bruxelles. Guarda che ti querela se fai la voce oddio, di Tremonti, vero. Ti querela. No, era semplicemente un po' di ti tempo. Querela. Allora abbiamo un ospite, oggi siamo direttoriali e fra poco avremo Marcello Sorgi che ci aiuta a capire il suo lume, la sua idea, la sua lettura sul caso Boschi, e voglio sentire quella di Oscar, perché un po' avete sentito le enorme mole di notizie di oggi. Calabresi chiede dimissioni. Certo, le parole di Calabresi sono di una durezza... Mamma mia, eh? Vero? Mamma. È tutto l'editoriale, poi non ho letto 5 righe, ma ho visto che come gira a pagina 43 ci sono delle frasi durissime. Cioè indispensabile, necessario per far capire ai propri lettori di aver capito, di provare a capire la differenza tra interesse generale e interesse familiare. Cioè una cosa proprio... Ma secondo te c'è anche un derby Repubblica... in cui Repubblica non si fa scavalcare dal Corriere, diciamo, nella criticità, perché è veramente molto duro. Ma questo sai, questa passione però noi addetti ai lavori. Non è accettabile che un ministro della Repubblica si occupi, dice Calabresi, di una questione che fa riferimento diretto a suo padre. Il rapporto di parentela con l'allora vicepresidente di Banca Etruria è il nucleo di un conflitto di interessi che sarebbe censurato in qualsiasi democrazia occidentale. Ma no, il PD non può più farsi carico di questa situazione. Mariana Boschi sta diventando un fardello. Violenza senza pari, perché in realtà va tradotto così, siccome è noto che a questa posizione Renzi non andrà mai.

la vostra risorsa più preziosa. Forget the car. Audi is more. Scoprite nuova Audi A8 e Audi Intelligent Assistance su audiinnovative.it. Mattino. Cani, gatti, tax cut, 8:32 e arriva il nostro ascoltatore da Pordenone che ci racconta che cosa pensa. Federico. Ma era Ghizzone, Federico Ghizzone. No. Giovanni da Milano, dai, proviamo con Giovanni e poi recuperiamo Federico. Buongiorno. Sì, ciao Giovanni da Milano. No, ho preso spunto dal commento che avete fatto sul fondo di Calabresi, no, per raccontarvi un attimo cosa mi sta succedendo. Nel senso che io ho letto il Corriere per 20 anni sostanzialmente, no? Gli ultimi mesi mi sono stancato, cioè l'ennesima intervista di D'Alema, l'ennesimo fondo di 6 pagine, l'articolo approfondimento di 6 pagine contro la Bosco, mi sono stancato. Allora passo a Repubblica. Repubblica peggio che andare di notte. Cioè, uno può criticare, no? Però effettivamente io noto un accanimento verso Renzi che io non ho mai visto, cioè, ma è una roba a livelli berlusconiani, no, mi viene da dire, e non capisco il motivo, cioè non capisco proprio il motivo di fondo, perché a parte l'antipatia, il carattere, tutto quello suo, però insomma ha governato 1 anno e mezzo, qualcosina ha fatto, voglio dire, veniamo da 20 anni di Berlusconi, ma perché bisogna andare così contro, proprio in maniera cieca, mi viene da dire, no? Perché io, e soprattutto suggeritemi un giornale da leggere, perché io non so più cosa comprare. Grazie. Noi li leggiamo tutti, Giovanni. Ci piace la diversità, tempo. Ma noi segnaliamo le cose. Per esempio, se lei fosse, cioè, dico, Bekis scrive una pagina per spiegare perché la Boschi quelle Ghizzoni. La Stampa oggi ospita un'intervista esclusiva alla Boschi in cui dice: mi attaccano anche perché sono donna, e quindi ci sono tutti i pareri e tutti i sapori sui giornali, eh? Su tutti i giornali, però il singolo giornale, cioè prendono linee, giornali anche che dovrebbero essere tra virgolette o super partes o comunque a favore di un dato partito, e invece hanno preso una linea che a me risulta difficile però da comprendere. Però super partes non vuol dire che non dici quello che pensi su, certo, ogni caso, però, no? Scusa, ma l'altro giorno il Corriere ha fatto 6 pagine sulla Boschi e a pagina 7 mezza pagina senza nessun rimando in prima su Di Maio e il referendum sull'euro. A me non sembra seria come cosa. Poi dopo, se mi viene a dire no, però vado a prendere un altro giornale perché lì trova tutto, ha ragione. Però a me che il Corriere faccia 6 pagine sulla Boschi e mezza pagina su Di Maio non sembra seria. O le interviste che ha fatto ad Alema Bersani in questo periodo, giustissimo, no? Soggetto politico, tutto quello che vuole. Però è andata oltre, Giovanni, secondo me. Le faccio un esempio, però il governo è una bella differenza. Se Di Maio fosse premier scriveremmo 80 pagine al giorno. Allora, quando Lupi era ministro fecero 6 pagine al giorno sul suo Rolex ricevuto dal figlio in regalo da una persona che era comunque legata ad appalti che riguardavano la pubblica amministrazione. È sempre così. Quando si è trattata la vicenda di Josefa idem, 55 metri quadri di IMU non pagata perché la casa veniva secondo alcuni fatta figurare come palestra, ci sono state 5 pagine al giorno sulla idem. Quando si è trattato del caso virgola di una che ministra... è andata a casa, caro ascoltatore, è andata a casa, non so nella se è chiara palestra. La differenza rispetto qui a dire no, io non mi sono interessata e annunciare quella De Bortoli, perché poi sa, è una lei dice lista. L'accanimento, però si è dimessa la Guidi, ma ci dimentichiamo Tempa Rossa. Pagine e pagine di telefonate, intercettazioni. Mi vuoi fare è una la regola squattra. Del giornalismo. Non credo che ci sia una discriminazione. Comunque, né no, di però, genere Luca, né aspetta, di parte. Questo dagli ascoltatori, come da chi non è ascoltatore, ma è renziano dichiarato, lo sappiamo. Loro vivono con profondo malessere il modo in cui vengono trattati e mistrattati. Ci sono fior di colleghi giornalisti. Se parli con Cristian Rocca, per esempio, che dirige il qui del gruppo Sole 24 Ore, Cristian Rocca la pensa come nostro ascoltatore, certo, lo scrive su Twitter, Claudio Velardi lo scrive da mesi, però io a loro dico sempre interrogatevi, cioè io capisco che vi siate ritrovati nello stile nuovo della leadership di Renzi, però interrogatevi sui limiti che ha dimostrato. Se le prendete come critiche pregiudiziali, secondo me commettete un errore. Però, questo era il mio punto di vista. Forse un giornale vicino alle tue posizioni in questo momento è Il Foglio. anche se oggi un po' di critica sul renzismo c'era nel pezzo di del direttore Cerasa, anche se definisce una non storia diventata scandalo la vicenda, la polemica sulla Boschi. Abbiamo anche, dicevamo, chi? Giancarlo da Varese. Giancarlo, eccoci. Buongiorno, io volevo semplicemente dire che si sta facendo diventare il lavoro di questa commissione parlamentare un processo a una persona che se ne è interessata direttamente, quando ritengo che la questione principale, anzi centrale, sia i risparmiatori che hanno perso. Su questo ha ragione, su questo ha ragione. Almeno la mia opinione personale, l'ho scritta oggi anche sul Mattino di Napoli, esattamente come la sta dicendo lei. Era un rischio molto forte però esporsi a una commissione parlamentare a Parlamento morto prima campagna elettorale, perché sai, è lo scenario ideale per fare campagna elettorale. E ripeto, quei tre errori del PD messi in fila hanno creato tutte le premesse perché fosse così, e il paradosso è che il PD l'ha voluta più di altre la commissione parlamentare in questo momento, credendo di volgere a proprio vantaggio, cioè di dimostrare che i regolatori, a cominciare dalla Banca d'Italia, avevano delle responsabilità, avevano fallato, erano stati distratti, tardivi, avevano sottovalutato. E io poi credo profondamente, tutto quello che ho scritto in questi anni, che in realtà sia molto così, e quindi ha ragione lei, bisognerebbe parlare più di quelle cose, però le premesse politiche sono state così, per così dire, mal preparate, che alla fine è diventato come dice lei, si parla solo di quello, ed è un grande peccato, perché in realtà da queste elezioni bisogna trarre poi delle lezioni, cambiare delle regole, impedire che l'Italia diventi sempre la solita storia. Perché se ci pensate, cari ascoltatori, 2001, 450.000 italiani che ci hanno rimesso l'equivalente di oggi di 13 miliardi di euro sui Tango Bond e Cirio e Parmalat, e adesso le obbligazioni subordinate rifilate a clienti, cioè risparmiatori ordinari che non hanno gli strumenti per capire, in realtà è sempre la stessa cosa e noi ci ricaschiamo. Allora, ecco noi, fra noi, uno dei re dei direttori degli editorialisti italiani. Buongiorno a Marcello Sorgi, che oggi buongiorno firma il suo taccuino con il racconto del palazzo e lo intitola La ciliegina sulla torta. Qual è la ciliegina e la torta dove finisce? Beh, la ciliegina è Carrai, no? Perché finora con quello che è accaduto, insomma, la commissione si era trasformata in una commissione d'inchiesta sul caso Etruria, sul caso Boschi, no? Con Carrai ovviamente lo spettro si allarga su tutto il Giglio Magico, perché Carrai è un uomo molto amico di Renzi, perché ai tempi, fin dai tempi della provincia di Firenze, collaborava con lui, perché a un certo punto Renzi voleva nominarlo responsabile della cyber security di Palazzo Chigi, e lì c'è una resistenza, insomma, del sistema, a cominciare dal Quirinale, e quindi certo, sì, magari sarà come dice Carrai, che lui si interessò di Etruria presso Unicredit per conto di un altro cliente, però insomma la coincidenza certo non ci voleva, non ci voleva per Renzi, intendo. Che cosa accadrà? Perché ci sono gli scenari più diversi. Diciamo che oggi la fotografia, stando ai virgolettari di retroscena, è che la Boschi e Renzi tengono duro, ma che qualcuno insinua l'idea che potrebbe non ricandidarsi, la richiesta di Repubblica, di dimissioni e di non candidatura. Qual è l'analisi che faresti e la previsione anche? Ma guarda, io ieri ero alla Camera e ho incontrato una deputata, una peone del PD, una deputata della Campania, che mi ha raccontato questo. Dice, volevano mandarci da Boschi in Campania, ci siamo opposti. Dice, perché non si vede perché dobbiamo prenderla in Campania, visto che ci farebbe perdere voti. Dice, c'è stata un'intervista del segretario di Arezzo, cioè insomma il collegio, la circoscrizione, il territorio da cui Boschi proviene, e il segretario adesso ha detto, beh, se proprio la volete mandare qui, mandatela, però sappiate che non sarà facile. E soprattutto, ha aggiunto, noi qui abbiamo dei parlamentari che hanno operato bene, quindi come faremo a spiegare ai nostri deputati e senatori del collegio che uno dei due deve farsi da parte per candidare la Boschi? E la terza cosa che mi ha detto, che è anche la più succulenta, ma non ho avuto il tempo di controllarla, è che in Trentino, che è un'altra delle possibili destinazioni. Sì, l'ipotesi che si fa per un accordo con l'SPD. Ecco, ma in Trentino il PD locale ha cominciato una raccolta delle firme. Quindi questo, voglio dire, dà un'idea di che cosa si muove. A favore o contro? Contro. Contro, contro, no, non l'avevo capito. La raccolta di firma è contro la candidatura della Bosnia. Quindi questo dà un'idea di quello che si muove sul piano, come dire, del meccanismo preelettorale all'interno del partito. Poi, come sempre, ci sono le minoranze, ma sappiamo. Però devo dire che oggi lei, la stampa dice, sono pronto a candidarmi ovunque, anche in Toscana, anche alla Terina. Ma io credo che lei si voglia candidare. La mia idea, il giorno, insomma, del caso è esposto, ho pensato questo, probabilmente, siccome lei non ha commesso nessun reato, se lei si fosse subito fatta da parte dal governo, perché il governo dà appunto l'idea di una pressione, l'idea di una prova di forza, se lei avesse detto io rinuncio, tanto è difficile che possa far parte del prossimo governo, no? Cioè è difficile che entri in una lista dei ministri con queste ombre qui. Quindi se lei si fosse fatta da parte subito e avesse invocato il giudizio degli elettori, avesse detto lascio il governo, ma siccome il mio problema è politico, non giudiziario, chiedo che siano gli elettori a giudicare, avrebbe avuto tutta la legittimità di candidarsi e anche la resistenza nei suoi confronti sarebbe stata minore. La cosa che non funziona è che lei insieme voglia mantenere il posto al governo e candidarsi alle prossime elezioni. Ecco, questo è interessante, una sorta di arrocco per essere più liberi. In fondo anche Lupi, dopo le dimissioni, nessuno gli ha più ricordato nessun addebito. È il problema del governo che crea il cortocircuito. Sì, è anche il senso. Problema del governo che crea l'ipotesi di conflitto di interessi, perché insomma, per quanto lei, cioè per quanto tutti, da Vegas a Visco e a Ghizzoni ieri, abbiano precisato che non ci furono pressioni, l'accusa è che la pressione era in sé. Cioè, se tu sei il numero due del governo e soprattutto se tu ti muovi con questa frequenza, perché sono cinque incontri quelli di cui si è venuti a sapere, ma probabilmente ce ne saranno stati altri. Cioè, sembra che lei per un certo periodo si occupasse prevalentemente di quello. E allora, se invece rinunci al tuo posto al governo, dai una prova di disponibilità e anche riconquisti una libertà di difesa molto più forte, come dicevi appunto tu, è diventato leader di un partito, ma anche nessuno parla più di Guidi, di Cancelleri, di Idem, cioè di tutti quelli che sono stati, come dire, accompagnati alla porta senza neanche avere il tempo di replicare, che però insomma poi alla fine nessuno li ha più perseguitati. Allora, grazie a Marcello Sorgi, lo salutiamo. E Oscar, vuoi aggiungere qualcosa? Buongiorno Marcello. No, io spero che la riforma, che il testo della relazione, finale, che Casini ha promesso, il presidente Casini ha promesso per fine gennaio, però sia relativa agli aspetti ordinamentali, cioè bisogna cambiare regole e rendere più prescrittive le regole di cooperazione tra Banca Italia e Consob, perché anche se la cosa non ha quasi interessato i giornali, su questo abbiamo appreso versioni dei fatti tra Vegas e Visco molto diverse, e quindi bisogna adottare un modello più prescrittivo in cui nessuno dei due possa dire non so quello che fa l'altro. Si può fare, negli altri paesi ci sono delle regole più precise. Secondo, il punto delle garanzie da dare al risparmiatore di non continuare a vedersi truffato dalle banche, ripeto, dai tango bond, dalle subordinate bancarie, quando non vi dicono dei rischi e ve la prendete in saccoccia, è una storia ventennale oramai ed è sempre la stessa, perché i regolatori, anche in questo caso secondo me Consob e Banca d'Italia, non hanno fatto quello che dovevano fare dal 2014 in poi. E poi, terzo punto, ci sono anche una serie di modifiche che la direttiva europea, a due anni dall'entrata in vigore, all'inizio del 2016, dovrà essere sottoposta. Anche lì ci sono delle riflessioni che nei lavori della commissione sono state avanzate, nessuno ne ha scritto, però queste tre cose almeno Casini le scriva per bene da consegnare al prossimo Parlamento, perché altrimenti ci risiamo e poi tra qualche anno facciamo di nuovo le trasmissioni con i risparmiatori italiani dicendo perché ve la siete prese nel fondo schiena. Ecco, quella è la cosa che mi preoccupa di più. Poi le boschi passano, le foreste rase al suolo restano. Mario Landrescina, sindaco di Como, buongiorno. Abbiamo buongiorno già discusso lei nella primissima buongiorno parte. Lei è stato difeso con passione da Mario Giordano nella prima parte, oggi l'attacca però anche il giornale con un fondo di zurlo in cui dice, a prescindere dai problemi interpretativi sulla delibera è sbagliato prendersela con i clochard, cercare di reprimerli, imporre delle multe a dei barboni, è una cosa priva di senso. Mi colpisce perché Zurlo scrive sul Giornale, quindi un quotidiano sicuramente vicino al centrodestra e non sospetto di antipatia politica. Qual è la sua verità su questa vicenda, l'ordinanza e le polemiche che l'hanno seguita? La mia verità, spero che mi venga riconosciuto almeno da chi mi conosce, a partire dalla mia storia personale. La mia storia personale ha sempre messo la persona al centro e non ha mai evitato di affrontare i problemi che riguardano i più deboli e le persone in difficoltà. Ciò detto, è fuori discussione che su una cosa del genere si può scatenare qualsiasi opinione e tutto il contrario di tutto può valere. Io devo svolgere un ruolo amministrativo in una città che naturalmente ha delle difficoltà come tutte le città e ho utilizzato uno strumento che sarebbe fin troppo facile da dire lo stesso di tante altre città che sono di diversa estrazione politica, però preme ribadire che per me da sempre vale la persona come elemento sostanziale per ogni decisione preliminare. La seconda osservazione che mi piace portare, non certo perché debba farvi vedere l'immagine che sta uscendo di me, che indubbiamente non mi piace, è quello che comunque sia di solito le decisioni. Ma i giornali dicevano ieri, alcune cronache, non ricordo esattamente quali, gli articoli dicevano in realtà la delibera l'ha fatta la vice sindaca, l'ha studiata lei nei dettagli e il sindaco, diciamo, non si era occupato nel dettaglio tecnico di questo provvedimento, è vero o no? No, devo smentire, perché di volta in volta naturalmente sto imparando che gli attacchi politici, io sono un laico, non è che debba per forza affrancarmi dalla politica, sono sostenuto da una maggioranza di centrodestra, ma la mia è un'espressione laica, quindi io vivo questo periodo come spirito di servizio amministrativo. Non c'entra niente la vice sindaca, che è espulsione di un partito della coalizione. Di volta in volta a me vengono attribuite le casacche del caso a seconda delle convenienze. Io tengo a essere ancora uno che cerca di ragionare con la sua testa, che sbaglia indubbiamente, che può essere criticato e questo fa solo che bene, però ancora cerco di avere, diciamo, quindi assunzione di responsabilità piena, questo le fa onore. Rimetterebbe adesso la norma della multa al clochard? Allora, la multa al clochard fa parte di un'ordinanza che basta prendere una qualsiasi tra le tante città che vanno avanti, deriva dal decreto Minniti, quindi non è sospetta di essere necessariamente di parte. Io credo che sia un buon decreto che dà degli strumenti per aiutare, c'è una larga. Ma parte, come fa un clochard città a pagare una multa di 300 euro? Dico banalmente, questo, è un provvedimento questo, simbolico, infatti, allora. Ma non è stata scombinata nessuna sanzione, sfatiamo anche questa cosa, non è stato riconosciuto nessuno. Io do un'interpretazione benevola su un caso che poi forse è diventato molto importante dal punto di vista dell'approccio, è giusto che lo sia, però non c'è stata nessuna espressione punitiva, c'è stato un avvicinamento da parte degli agenti che cercavano di fare il loro lavoro, c'è stata una posizione da parte dei volontari che davano la bevanda calda, l'ordinanza non parla del divieto di somministrare di bevande calde, evidentemente da questo incontro non è nato certamente una relazione, diciamo, di... Cioè i volontari sono stati fermati per un eccesso di zelo, lei vuole dire, non era necessariamente prescritto. I volontari hanno lamentato... No, ma non è successo. Hanno lamentato? Punto di vista... Hanno lamentato di essere stati allontanati perché in quel luogo sostavano delle persone fragili che si raccoglievano e che quel luogo è stato oggetto di ordinanza perché una parte preponderante della città ha insistito e giustamente, secondo me, con dei motivi. Quindi ci sono paradossalmente delle ragioni da tutte le parti. Il sindaco cerca di mediare, di cucire, di trovare il punto di equilibrio. Naturalmente sono state urtate evidentemente delle suscettibilità e sulla base poi dell'ottimo lavoro dei volontari qualcuno cavalca l'onda. Però se fosse stata combinata una sanzione, tutti sanno che anche combinare una sanzione amministrativa sarebbe ridicolo in una persona nulla tenente. Tengo a precisare un'ultima cosa, se mi dà ancora un minuto. Sì, un secondo. In questi mesi è stato fatto un lungo lavoro per arruolare tutte queste persone e offrirgli delle soluzioni dignitose, di riparo, di assistenza, di abbigliamento, di cibo. Questo grazie innanzitutto alle associazioni, Caritas in particolare, ma anche il Comune ha fatto la sua parte. Quindi prima di fare qualsiasi ordinanza mi sono peritato come stile nella mia vita di offrire delle soluzioni di buon senso. Bene. Di questo naturalmente non si è parlato. Grazie, grazie sindaco, grazie, la salutiamo. Giusto riflettere in questo modo, comunque si è aperto un problema, abbiamo espresso le opinioni, vi abbiamo dato i fatti. Andrea da Treviso. Pronto Andrea? Ci siamo? Ci sono sti vuoti. Pierpaolo da Pisa. Ah no, eccolo, voce, pronto? Eccoci. No, mi rifaccio a quello, all'intervento di un ascoltatore di prima, dove appunto si parlava del fatto che ci sia un accanimento a questo punto verso una singola persona, tralasciando quello che è l'insieme della crisi delle banche. Sì. Per porvi una domanda, non è che la cosa sia voluta, nel senso, mettiamo il focus su una persona, fa un po' da capro espiatorio, magari non succede niente, si appiana tutto, la commissione non porta a nulla, però nel frattempo tutto il resto passa avanti e le banche Etruria, Veneto e Vicenza chiudono senza danni e senza passando così inosservate. E ora le rispondiamo, sentiamo anche Pierpaolo che credo sia sullo stesso tema e poi rispondiamo entrambi. Sì, buongiorno. Io buongiorno Pierpaolo. Premesso che non sono renziano, per me la Boschi insieme a Renzi dovevano andare a casa un anno fa per il referendum famoso, no? Questo per dire la seguente cosa, secondo me c'è un po' troppo, no accanimento, ma ormai non si parla di altro. Io non capisco come mai, io che mi informo sempre, mi piace sentire un po' tutte le testate, giornali, televisione, non si parla d'altro del caso Boschi. Cioè ragazzi, oggi si parla all'ONU di una decisione importantissima sulla capitale, in cui c'è Trump e tutto il suo gruppo che hanno minacciato proprio delle cose, delle ritorsioni gravi sugli altri paesi che hanno minacciato ritorsioni. Trump minacciato ritorsioni, ma che sciocchezza sta dicendo, scusi, ma perché sa lei, si lamenta dell'informazione, Oscar. Poi dice ma non è possibile adesso quella questione sono le ritorsioni di Trump che minaccia a chi, cioè. No, non faccia esempi impropri. Comunque il fondo del suo ragionamento è quello che stiamo dicendo anche noi, è diventato il palcoscenico di un capo espiatorio. Certo, c'è chi ha commesso degli errori dandogli agli altri, offrendogli su un piatto d'argento. Ma questo è forse la politica è spietata. Io faccio una domanda ad Andrea e in parte anche a Pierpaolo. Ma se la Boschi non avesse querelato De Bortoli, accendendo lei il riflettore, Lo so, però non staremmo le scalie, qui a parlarne. Però lo hanno fatto. Fammi dire una cosa di sostanza, cari ascoltatori. Pensi l'Agenzia dell'Entrata nella legge di bilancio si fa dare l'ok alla violazione delle sentenze della Corte di Costituzionale. Per anni hanno resistito, la Corte aveva detto i vostri dirigenti non sono nominati per concorso, non possono fare dirigenti, vincono loro nella legge di bilancio ancora una volta, passa la conferma del ruolo per chi è stato dirigente senza concorso. Questo è lo Stato che dice che io e quelli come me che protestano per la legalità di Stato, noi saremo per l'evasione, loro sono la prova provata, violano le leggi e la Costituzione e violano anche le sentenze della Corte. E così pagina 2 del Sole 24 Ore di oggi, non crediate che sono io che sono impazzito, uno Stato che si calpesta da solo è uno Stato che perde credibilità. Ciao, a domani!